America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri ci siamo occupati di un potenziale terzo partito che potrebbe sorgere in gennaio. Il terzo partito in realtà sembra esistere già, perché domani ci sarà in Virginia una importante convenzione, una convenzione dei Tea Parties della Virginia. E dunque sentiamo l'inno dei Tea Parties. Mr. President, your stimulus is sure to bust. It's just a socialistic scheme. Questa convenzione è importante perché è in qualche modo il segnale più concreto della maturazione di questo movimento, che si rende conto di essere ormai stretto alle corde, molto isolato all'estrema destra, e dunque reagisce, cerca il dialogo con il Partito Repubblicano, cerca di organizzarsi. Prendiamo la situazione della Virginia. In Virginia, pensate, un singolo stato, c'erano addirittura ben 30 Tea Parties diversi, gruppi diversi, non coordinati fra di loro, che magari avevano anche posizioni così contrastanti su alcune delle tematiche politiche, su alcune delle proposte di legge. Parliamo di microlocalismo. Ebbene, i tempi delle primarie sono finite, i tempi della polemica estrema sono finiti. A questo punto i Tea Parties cercano di organizzarsi meglio. Ricordiamolo, non hanno un leader, vogliono continuare a restare come un movimento di base senza un leader vero e proprio. Però, come ci ha detto Jamie Ratke, che è una delle donne militanti del gruppo in Virginia, collaborare, coordinarsi e comunicare diventano obiettivi centrali se vogliamo avanzare la nostra causa, se vogliamo avere un impatto sull'iter legislativo. Ecco, questo è il meeting di domani, storico. Ci saranno 3.000 delegati che arriveranno a Richmond per dare una struttura ai Tea Parties e per controbattere alle accuse che giungono dalla sinistra e quelle secondo cui in realtà il Tea Party è così un movimento un po' di pazzi, relegato all'estrema destra, non avrà alcuna possibilità di portare alla vittoria i suoi candidati alle elezioni di novembre. Sul grande manifesto dell'invito a questa convention di domani si dice: la Costituzione ha la sua importanza. 2010 Virginia Tea Party Patriot Convention, i patrioti del Tea Party. We're citizens of this great country. Ci sarà musica, come avete sentito, questa è un'altra canzone tipica dei Tea Parties. Ci saranno hot dogs, ci sarà una festa sui prati, ci saranno gli hamburger e le potato chips, ma soprattutto si parlerà di politica. Un segnale, secondo me, piuttosto interessante di questa apertura del movimento dei Tea Parties lo abbiamo dagli speakers che parteciperanno a questa convenzione, perché ci sono poi così dei vecchi protagonisti del partito. Per esempio c'è il senatore della Pennsylvania Rick Santorum, che certo è simpatizzante dei Tea Parties, però è anche un tipico esponente della Washington che i Tea Parties vogliono contestare. Ci sarà il governatore della Virginia, Bob McDonnell, ci sarà Ken Cuccinelli, che è il procuratore generale dello Stato, ma anche Lou Dobbs, qualcuno di voi lo ricorderà, era uno degli editorialisti della rete televisiva CNN, licenziato così per aver manifestato alcune delle sue posizioni un po' estreme in diretta televisiva. C'è anche John Fund, editorialista del Wall Street Journal. Ecco, questo per dirvi che cosa? Che dietro questi nomi che vi ho appena citato c'è establishment. L'establishment si incontra con i Tea Parties. Il Partito Repubblicano cerca di ritrovare la sua unità e lo fa perché? Perché la battaglia per queste elezioni di novembre sarà durissima. Ci sono delle risposte indispensabili, necessarie, contro gli attacchi più recenti da parte dei democratici. No! La protesta e l'energia dei Tea Party miscelata con la solidità organizzativa del Partito Repubblicano è la risposta a chi? Soprattutto a Barack Obama, che devo dire ha preso alcune posizioni di leadership piuttosto ferme recentemente per cercare di mobilitare la sua base politica con un messaggio molto chiaro. Ora conosciamo il volto dei Tea Parties, dice Barack Obama. Sappiamo che alcuni dei loro candidati sono impresentabili e giù contro, per esempio, Christine O'Donnell, la candidata che si è aggiudicata le primarie del Delaware per il seggio senatoriale di quello Stato e che, devo dire, non è che fa mai una grande impressione. Sentiamo qui la sua voce, per esempio. Ladies and gentlemen, the people of Delaware have spoken. Dicevo, il messaggio di Barack Obama è molto chiaro. Nel momento in cui i repubblicani si presenteranno con candidati come Christine O'Donnell, non avranno alcuna possibilità di vincere. I Tea Parties sono un movimento piuttosto strano. E Obama a questo punto esprime pragmatismo, perché dice: beh, forse non avete apprezzato tutto quello che ho fatto, ha detto alla base, alla sinistra del partito, però alla fine sarà sempre meglio votare un democratico che un repubblicano, e dunque cerca davvero di mobilitare fino in fondo la sua base politica, un contrattacco che in qualche modo è servito. E dunque torniamo alla convenzione della Virginia, che serve per raffinare l'immagine dei Tea Parties, per rassicurare, per lasciare al movimento la sua linfa di autonomia da una parte, ma per rafforzare allo stesso tempo, come dicevo, il dialogo con il partito centrale. Mi ha molto colpito un articolo di ieri del Wall Street Journal in cui si anticipava che questa tendenza non è soltanto per la Virginia, ma avviene in molti stati e annuncia addirittura prossime convenzioni in Texas, Pennsylvania, Indiana, Michigan, Ohio. Una risposta dunque alle iniziative democratiche, ma anche all'indiscrezione già smentita dagli interessati, secondo cui Barack Obama chiederà a Hillary Clinton di essere la sua compagna di corsa per le presidenziali del 2012. Dopo aver fatto le convenzioni statali, beh, il passo per fare una convenzione nazionale non è poi così lontano e così lungo, e chissà che davvero non ci sia questo candidato dei Tea Parties e che alla fine la corona non vada, come molti e pensano, all'ex governatore dell'Alaska Sarah Palin. Una curiosità infine: il costo di queste elezioni di novembre è già record, sono stati superati i 3 miliardi di dollari contro i 2,8 miliardi di dollari del 2008. Beh, direi che parliamo di cifre che per noi basterebbero per un piano di rilancio dell'economia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Durante uno dei rally dei Tea Parties, una delle reti locali ha intervistato Maureen Tucker, che è la batterista dei Velvet Underground, addirittura fin dal 1963, una donna in qualche modo pioniere. Dunque, dei Velvet Underground sentiamo una canzone che a me piace molto, Sunday Morning. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.